Yeah yeah yeah, Nate, ok, per tutti i ragazzi della zona. Yeah, Scendo su sta merda come una legione, è da due anni che rappo coglione. Quindi non parlare, chiudi quella bocca, stai attento al tuo cervello che ci sbrocca. Lungo la via sento odore di marijuana, sento il mio amico parlare di quella indiana. Sento la testa scoppiare sulla strumentale, devo essere sincero, l'amaro che sale. Se tu facessi la metà di quello che facciamo, probabilmente merda ci lasceresti il cranio. Volano sberle se qualcuno fa l'infame, non tradire la squadra o finisci male. Di merda non parlare, sti scemi aprono la bocca giusto per infamare. È l'unica cosa che potresti fare, l'unica cosa che potresti fare. Io non parlo più con certe persone, ti pugnalano alle spalle senza pudore. Speriamo che non si facciano più sentire, quelle merde devono sparire. 30 giorni di rotture, non so cosa dire. Parlare con una cogliona tanto per mentire. Frate, ho visto il fascicolo completamente verde, ho visto la tua compagnia di merde. Non mentire, sì che menti, hanno doppie facce velenose come serpenti. Del resto che ci potevi fare, ti sei fidato e ora ti fai pugnalare. Eh sì, quindi pensa solo agli amici veri, quelli che ci sono anche dopo dei problemi. Facciamo gara di distruggere i neuroni, sai quanti svarioni con labbro ropioni. Cade un'incudine sopra la testa degli infami, per contarli non mi bastano due mani. Pezzo da censura, aspetto la denuncia, ma la tua faccia di merda non conta nulla. Immerso in una giungla di rabbia, lascio uscire il mio odio chiuso in una gabbia. Merda che ho in testa, che mi fa impazzire, non morirò prima di finir le rime. È un attacco ad elle, il mio sogno è stare in un backstage insieme a due gemelle. Particelle del cranio che si iniziano a staccare, il consiglio migliore è smetti di parlare. Non mi bastano le ore, non ci sono più reperti. Ascoltano due brani, son già tutti esperti. Si credono bravi, comprano le basi, alla fine li vedi copiare testi americani. È da un po' di tempo che sono in balia dei sentimenti, ho voglia di fumare, guardo l'ora, son le 4:20. I sogni son difficili da realizzare, ma tu ti accontenti, ma tu ti accontenti. È da un po' di tempo che sono in balia dei sentimenti, ho voglia di fumare, guardo l'ora, son le 4:20. I sogni sono difficili da realizzare, ma tu ti accontenti, ma tu ti accontenti.